piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. L'indice del contagio è schizzato a 2,88 in Germania a causa del focolaio in Nordrhein-Westfalia, il mattatoio del paese. Qui le autorità valutano l'istituzione di una zona rossa. Sono 8,8 i milioni di contagi al mondo, secondo i numeri diffusi dalla Johns Hopkins University. Il record resta degli Stati Uniti, dove Biden accusa Trump di aver ordinato una riduzione dei test per diminuire artificialmente il numero dei casi. La Cina intanto è alle prese con il focolaio al mercato di Pechino. Teme una seconda ondata ed effettua test a tappeto. Il Giappone conta nuove infezioni e, come la Cina, teme il ritorno del virus. Il cimitero di Rio de Janeiro è l'immagine di un triste primato, oltre 50.000 le vittime nel paese più colpito del Sud America. Gli amministratori chiedono attenzione, perché altrove i casi sono in aumento. Dalla Svizzera alla Bosnia i numeri stanno risalendo. Ci stiamo rendendo conto, anche se il tema sembra essere ormai dibattuto sotto tutti i punti di vista, che non c'è più un'idea comune o, diciamo, costantemente verificata su ciò che sia il Covid-19. Guardate le pagine dei giornali di questa mattina, chi tra lo scandalizzato, chi tra il giubilante, registrano il fatto che questa fine settimana ha registrato accalcamenti totali in tutti i treni che andavano verso il mare, persone stipate addirittura nelle cappelliere, ho letto in un articolo, le spiagge la stessa cosa, le persone una sull'altra, come se niente fosse stato, non ce n'è di Covid, come diceva la signora siciliana che ormai è diventata un'eroina di Barbara D'Urso. E qua dobbiamo cominciare a porci un problema di comunicazione, un problema di racconto di quello che è stato il Covid-19 e quello che è il Covid-19. Noi tutti nella nostra professione quotidiana ci siamo in qualche maniera dilungati per vari mesi nel raccontare, nell'intervistare, nel percorrere e nel provare per quanto possibile con gli strumenti a disposizione, con le persone che ci sembravano più adatte nel poterlo fare, con gli strumenti scientifici a nostra disposizione, di cercare di raccontare giorno per giorno quello che avveniva. Adesso ci troviamo in una fase molto ambigua in cui la nostra responsabilità di comunicatori, secondo me, aumenta. Aumenta perché nelle persone non c'è più la percezione del rischio, del pericolo. Non si vedono più i morti, non si vedono più le processioni di bare, non ci sono più, diciamo, notizie che registrano ogni giorno in tono anche ossessivo il fatto che viviamo tutti in un momento particolare. E quindi prevalgono le letture ideologiche. Oggi l'ideologia prevale anche rispetto a quella che dovrebbe essere una emergenza sanitaria da trattare con gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione per raccontare, arginare, prevenire e in qualche maniera andare incontro a una necessità che ha cambiato le nostre vite. E quindi le letture sono di doppio tipo. Finalmente ci siamo tolti il bavaglio, ci siamo tolti il guinzaglio, andiamo tutti in spiaggia, basta col plexiglass, basta con queste storie che ci hanno imposto, basta con questa narrazione del Covid, tutti al mare a far vedere le chiappe chiare da un certo punto di vista. D'altra parte, sempre nella stessa testata in cui Vittorio Feltri dice finalmente ci siamo tolti il guinzaglio, Farina ancora scrive e parla di menagrami. I menagrami sono quelli che in qualche maniera rimangono un po' perplessi di fronte all'ammasso nelle spiagge italiane. Oggi sono le spiagge, fra una settimana saranno le discoteche, i locali all'aperto, le pizzerie. Insomma, cosa è accaduto e cosa sta accadendo? Qual è il punto di vista più coerentemente legato a una prassi scientifica riguardo la narrazione del Covid che tutti i giorni dobbiamo fare? Beh, oggi è proprio uscito fresco di giornata l'ultimo rapporto della Fondazione GIMBE di Bologna, che è un ente che non fa altro che mettere assieme appunto quelli che sono i dati scientifici, i numeri, e tira delle conclusioni. Abbiamo il presidente della Fondazione Gimbe, come già altre volte abbiamo avuto, Nino Cartabellotta, al telefono, e a lui chiediamo di raccontarci quello che è l'ultimo rapporto. Cartabellotta, buongiorno innanzitutto. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ricordo che Cartabellotta è un medico, è un esperto di fama riconosciuta delle materie di cui tratta, quindi non è un divulgatore come posso essere io. E oggi fa un rapporto, secondo me c'entra appieno quello che è il momento dell'ambiguità che stiamo vivendo e deve essere una sorta di punto di attenzione per noi che comunichiamo. Innanzitutto dico agli ascoltatori di chiamarci all'800240024 e dirci qual è la loro percezione attuale rispetto alle normative che sembrano che ogni giorno si contraddicano. A Napoli bisognava comunque mantenere le distanze, mettere le mascherine, accade che il giubilo per una partita vinta rimette tutti in massa l'uno sull'altro, il giorno dopo dice le mascherine non servono più, non c'è più bisogno, quindi non servono più. E questo naturalmente fa sì che se io vado per strada con la mascherina, come è successo ieri, vengo guardato da ragazzi di passaggio come un vecchio rincoglionito, come quelli che si mettono la cintura e le bretelle per maggiore sicurezza. Ecco, la sintesi del tuo rapporto, Cartabellotta, è proprio che ci sia un disaccordo palese tra gli esperti, una narrazione che è molto basata sull'ideologia e, ahimè, mi dispiace dirlo, anche sull'orientamento politico, che qualcuno dica è proprio così, esattamente così. E questo disorienta completamente i cittadini che vogliono comunque in qualche maniera essere informati. Ma io comincerei con una puntualizzazione di carattere generale, perché oggi nella narrazione dell'epidemia, della pandemia Covid, in particolare in Italia, dobbiamo tenere distinti tre aspetti: quello squisitamente sanitario, quello epidemiologico e quello di comunicazione sociale, comunicazione pubblica. Per quello che riguarda l'aspetto sanitario, è evidente, fuori oltre ogni ragionevole dubbio, che la fase, diciamo, della grande paura è passata. Gli ospedali si stanno svuotando, le terapie intensive analogamente, quindi quelle immagini che anche lei stesso ha citato delle bare di Bergamo sono ormai un lontano ricordo, quindi la grande paura, diciamo, si sta dissolvendo, o magari rimane in qualcuno che l'ha vissuta in maniera diretta. Quindi sul fatto che oggi siamo in una fase ormai discendente rispetto a quello che è l'impatto sanitario, ecco, tendo a precisare questo, quindi della gravità clinica della malattia, siamo tutti d'accordo, credo oltre ogni ragionevole dubbio, che questa fase è passata. Poi c'è l'aspetto invece epidemiologico. Cosa significa? Il fatto che la gravità clinica della malattia, vuoi grazie al lockdown, vuoi grazie alla capacità di assistenza, vuoi grazie al fatto che abbiamo messo, diciamo, in sicurezza le persone più a rischio, non significa che il virus non c'è più. Anzi, il virus continua a circolare, ci sono anche dei piccoli movimenti al rialzo dopo il 3 giugno, in particolare in alcune regioni, in particolare in alcune province. Quindi affidarsi o fidarsi solo di quello che è l'aspetto sanitario, cioè le terapie intensive si sono svoltate, in ospedale non ci va più nessuno, che poi questo non è nemmeno vero, perché ci torneremo dopo, perché noi conosciamo quello che è il saldo dei pazienti in ospedale, cioè non sappiamo quanti entrano e quanti escono, sappiamo che progressivamente ogni settimana sono sempre meno, ma questo non significa automaticamente che non entri più nessuno. E poi c'è l'aspetto della comunicazione pubblica. L'aspetto della comunicazione pubblica nelle ultime settimane, visto che i numeri sono stati sempre meno, diciamo, eclatanti, e quindi c'era anche poco, voglio dire, da dibattere, voglio dire, su quelli che sono i numeri in termini assoluti, si è spostato un po' su quelle che sono le dichiarazioni di tanti colleghi autorevoli, esperti, che hanno ovviamente espresso le proprie posizioni, magari facendo riferimento a studi di ricerca di base che ovviamente prima di diventare comunicazione pubblica devono essere validati, replicati, confermati in altri setting e quindi in altri contesti di studio, oppure da quelle che sono osservazioni cliniche che vengono dalla propria pratica. Però mi dà atto, Cartabellotta, non dico che questo avvenga per responsabilità diretta di cosiddetti esperti, che ci sia un accaparramento fazioso anche delle persone a seconda dell'orientamento che ho rispetto alla realtà generale, cioè che esista una grande congiura, in questo caso nel nostro paese, governativa, di tenere gli italiani chiusi, legati, ingabbiati, in mancanza di altre risposte, quindi si trovano le persone che confermano il fatto che esista ancora un rischio percepibile, o altrimenti che sia stata tutta una grande narrazione strumentale e quindi il virus si è indebolito, il virus si risolverà da solo, non c'è più bisogno, sono state misure eccessive, possiamo tornare alla vita, finalmente la libertà, abbiamo diritto di andare al mare, diritto di divertirci. Si rende conto che, per quanto uno possa negare questa realtà, esiste uno schieramento ideologico anche nella lettura, che dovrebbe essere scientifica, di questa realtà? Ma la lettura deve sempre comunque essere scientifica, e noi proprio con il report di oggi abbiamo sottolineato che la scienza per sua stessa natura ha due caratteristiche. La prima, deve sapere convivere con l'incertezza, cioè noi non abbiamo risposte definitive su tutti quelli che sono gli aspetti. E la seconda è che la scienza è in continua evoluzione, quindi è evidente che affermazioni, voglio dire, basate sull'ipse dixit, che ovviamente sono condizionate anche, come diceva lei, da quelle che possono essere non necessariamente dichiarazioni oggettive basate sulla scienza, ma consapevolmente e inconsapevolmente distorte da quella che è la propria attività, il proprio filone di ricerca, la propria attività clinica, oppure anche condizionate da quelle che sono orientamenti che possono essere di tipo politico, di tipo ideologico, di altra natura. Questo è noto nel mondo della ricerca come il bias dal cappello bianco, cioè un qualcosa, voglio dire, che i ricercatori consapevolmente e inconsapevolmente mettono in atto quando comunicano la scienza, che inevitabilmente rischia di essere influenzata da quelle che sono delle posizioni soggettive. Faccio un esempio molto concreto: se io non mangio la carne e mangio prevalentemente frutta e verdura, se dovessi scrivere un libro sulla scienza dell'alimentazione, inevitabilmente le mie attitudini alimentari condizionerebbero anche inconsapevolmente quelle che sono le raccomandazioni che io vado, anche basandomi sulle migliori evidenze scientifiche, a scrivere all'interno del mio testo. Quindi gli scienziati, da questo punto di vista, per poter essere oggettivi devono utilizzare metodi rigorosi, con senso, perché poi si sa bene che in assenza di multiprofessionalità e di multidisciplinarità le posizioni possono essere più o meno, diciamo, ricche di spigoli, motivo per cui, per esempio, quando si producono linee guida per la comunità scientifica internazionale, si fa attenzione che il gruppo sia composto da professionisti che appartengono a tutte le professioni, a tutte le discipline, perché la visione parcellare ovviamente può in qualche maniera, in assoluta buona fede, andare a condizionare anche quelli che sono. L'interrompo un attimo, Cattarellotto, solo un secondo, per dare spazio a un ascoltatore, per avere un primo esempio di quanto poi questa difficoltà, non voglio dire che un frutto di incapacità o di volontà di essere tendenziosi, ma la difficoltà poi a trovare un filo per raccontare, come ha detto giustamente la scienza, che non è mai una certezza finale, si risovrascrive sempre alla luce di quella che è la ricerca, quella che è il confronto. Per chi cerca verità assolute, oggettive, naturalmente poi si ricade nella necessità, nella volontà di scegliersi lo scienziato, il divulgatore, l'esperto che più è vicino al proprio bias, cioè al proprio, diciamo, condizionamento e pregiudizio. Sentiamo Roberto da Cremona, buongiorno. Buongiorno, la domanda è: se a uno gli viene un infarto, viene ricoverato, lì all'ospedale, muore per l'infarto, però purtroppo quando gli fanno il tampone lui è positivo, se lui muore viene catalogato come morto per Covid? Questa è la domanda. Ma perché si pone questa domanda lei? No, perché voglio sapere come vengono catalogati i morti. Sì, ho capito, ma cosa se le uno cambia, ha diabete lei? Alto, viene ricoverato, muore perché ha diabete alto, però risulta positivo a Covid. Sì, ma Roberto, volevo capire COVID. Il retropensiero c'è dietro questa domanda. Lei dice si esagerano i morti perché gente muore per altre cose, viene classificata come Covid, quindi c'è una narrazione che tende a esagerare. Io non questo... lo so, chiedo. Ma chiedo non, com'è lei la, pensa la questo? Una domanda, vuol sapere. Lei pensa questo? Sia sincero. Io penso che io non so come viene fatta la catalogazione. Penso che per, diciamo, nel dubbio, morto per Covid, così vabbè. Poi vede che prevale il bias, cioè il suo pregiudizio è che sia stata una narrazione che tende a esagerare, quindi lei vuole entrare nel particolare. Adesso le risponderà il professor Cattarellotto. Dice: vedi, allora chi muore per diabete, che è una vicenda che risale ai primi tempi del Covid, se è stato il grande discrimine, esagera con i morti, gente sarebbe morta comunque, sono degli anziani che è fisiologico che muoiano. Nino Cattarellotto, vede, abbiamo avuto subito la conferma di quello che stiamo dicendo. Questo signore fa una domanda apparentemente neutra, ma che sottende il fatto che lui sospetta che qualcuno tenda a gonfiare il numero dei morti. Ma guarda, rispondo al radioascoltatore con quelli che sono i dati oggettivi. Noi al momento abbiamo avuto classificati come morti Covid tutti i soggetti che sono deceduti e avevano il tampone positivo. Poi alcuni di questi erano decessi causati direttamente dal Covid per una polmonite interstiziale in assenza di altre patologie concomitanti. Però che cosa bisogna sottolineare? Che siccome la maggior parte dei soggetti deceduti sono anziani, al crescere dell'età cresce il numero di patologie concomitanti, tanto che oggi si parla di paziente con multimorbidità, dal punto di vista squisitamente fisiologico e patologico è quasi impossibile stabilire se quale sia stata la responsabilità oggettiva del virus determinando una polmonite o comunque diciamo un problema respiratorio. Poteva portarsi avanti tranquillamente la sua posizione di malato diabetico, la polmonite, cardiopatico, se non ci fosse stato il Covid magari era ancora qui a poterlo raccontare. Ci fermiamo solo un istante, la risposta era quella che abbiamo dato mesi fa, ma se la gente ancora si pone questa domanda, la gente ha dei dubbi sul fatto che sia stata narrata in maniera coerente la storia del Covid. Tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. La diffidenza assale quasi metà degli italiani, nonostante le decine di migliaia di vittime, nonostante il trauma del lockdown. Stando ad un sondaggio, più di 4 italiani su 10 dicono no al vaccino contro il Covid-19. In barba agli scienziati, che ripetono da mesi, solo il vaccino potrà liberarci dall'incubo. Stando ad una ricerca dell'Università Cattolica realizzata tra il 12 e il 18 maggio, 4 interpellati su 10 collocano la propria propensione a una futura vaccinazione tra il per niente probabile o a metà tra probabile e non probabile. Tradotto, quando il vaccino sarà disponibile, solo il 49% degli italiani molto probabilmente o abbastanza probabilmente lo farà. 800 24 00 24. Stiamo parlando della percezione generale rispetto al Covid-19, che deriva comunque da alcuni personali pregiudizi. Ma quando l'informazione è polarizzata su due punti di vista opposti, naturalmente la gente sceglie quello che in quel momento gli fa più comodo scegliere. Me lo scrive Sabrina, un'ascoltatrice sul gruppo Melog ha parlato. In questo momento il maggior vantaggio a breve termine è andare al mare e non porsi problemi, quindi hanno ragione quelli che dicono che i menagrami stanno esagerando. Abbiamo in regia da Milano Roberta Frisani, che ringrazio, insieme a Riccardo Poli in assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ricordo, sto parlando con Nino Cartabellotta, medico, presidente della Fondazione Gimbe, gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, tra gli esperti più autorevoli di ricerca e sanità nel nostro paese, e in questo momento ci sta raccontando quello che è l'ultimo loro rapporto, la Fondazione Gimbe, che appunto sottolinea il fatto che ci sia una sorta di difficoltà di narrazione scientificamente corroborata per una serie di pregiudizi, per una serie anche di esagerazione nel sottolineare aspetti che sono transeunti e non definitivi nella ricerca scientifica. Cartabellotta, ci prepariamo anche ad affronteggiare la nuova ondata Novax, perché il problema, semmai quando si parlerà di vaccino, sarà che la gente dirà che vuole la libera scelta anche per fare il vaccino per il Covid. Ma questo è molto difficile dirlo, perché è evidente che in questo momento al non c'è il vaccino, già questo è il fatto. Il vaccino non c'è, quindi può condizionare in maniera negativa quella che è la disponibilità. Io dico, i sondaggi bisogna sempre prendere con le pinze. Certo, la percentuale del 40% è una percentuale molto elevata. Noi proprio stamattina, nel comunicato che citava, abbiamo ribadito che auspicando tempi rapidissimi della ricerca, ipotizzando anche quelle che sono le cosiddette procedure fast approval, cioè il fatto che gli enti regolatori attivino le procedure di autorizzazione rapida, e tenendo conto dei tempi di produzione su larga scala, cioè la possibilità che tutti gli italiani possano vaccinarsi, o comunque tutte le persone in qualsiasi paese, non sarà possibile prima della stagione influenzale 21-22. Anche il preaccordo che è stato firmato dall'Italia insieme a Francia, Germania e credo Olanda, il terzo paese, con l'AstraZeneca, la potenzialità di produzione, ripeto, fatto salvi i progressi della ricerca e le autorizzazioni, si parla di circa 2 milioni di dosi di vaccino. Quindi in questa stagione influenzale, se tutto dovesse andare benissimo, soltanto alcune sottocategorie a rischio, annunciate anche avrebbero il vaccino. Quindi i tempi ancora sono medio lunghi, quindi questo è un dato di fatto. È evidente che il 40%... Però già se ne parla, perché naturalmente in cerca di nuovi argomenti per trattare il Covid, qualcuno comincia già a fare i sondaggi, ma te lo farai o no il vaccino. Io volevo, se possibile, sentire qualche ascoltatore, poi vorrei da lei, Cartabellotta, proprio per dare un senso compiuto a questa nostra chiacchierata, che mi facesse un punto, proprio alla luce delle evidenze, rispetto alcuni passaggi, tipo le mutazioni del virus, se è vero che il virus ne va a temperature elevate, che oggi è meno contagioso e che non è più necessario essere distanziati. Questi sono i punti poi che alla fine su cui possiamo solo dare un servizio, dire almeno quello che l'evidenza scientifica al momento ci dice. Sento solo un paio di ascoltatori, sono tantissimi, ma ahimè, la mia trasmissione dura 25 minuti, ho visto, utili, quindi questo posso fare. Rino da Lecce, velocissimo. Pronto, buongiorno. Rino. Sì, l'ascolto. Sì. Buongiorno. Allora, a proposito dei decessi per causa Covid oppure no, io l'ho letto qualche settimana fa, forse una quindicina di giorni, anche 20, di una statistica che diceva che i morti realmente per coronavirus sono il 3,9% del totale. Quindi, Rino, la sua conclusione rispetto. È che il coronavirus di per sé stesso non è poi una malattia così grave come... Io poi le faccio riflettere solo una cosa, poi io passerò la storia che lui contraddice. Lei ha letto una statistica, non so dove, non si sa come. Lei cosa fa di mestiere, Rino? Io sono pensionato. Lei è un pensionato, legge da qualche parte qualcuno, potrebbe essere Nicoletti, una mattina si sveglia e dice solo il 3% muoiono da coronavirus. Su questo fonda la sua certezza. Chi le sta parlando? Non fondo la mia certezza. Sicuramente il coronavirus è un problema serio che va preso con tutte le dovute cautele, però se si usano tutte le cautele del caso, alla fin fine non è una malattia tanto letale come questa è la sua convinzione da questa lettura che ha fatto probabilmente in internet, che solo il 3% muoiono da coronavirus. Le stiamo dicendo, abbiamo appena detto che le cose non stanno così, che glielo dice una persona che una vita ha studiato per analizzare questi dati, ma giustamente lei persegue quello che a lei in questo momento piace più pensare, ma è così, non è che se le faccia una colpa, è così. Piero da Torino. Buongiorno a tutti, ma io ho estrapolato un pezzettino perché avevo acceso l'ultimo momento. A me la domanda, collegandomi anche al signore di prima, io non che non credo, presumo che sia una polmonite virale, bruttissima. Lei è un medico? No, pensionato, niente. Una cosa però, perché non hanno fatto le autopsie tutte queste persone? E questa è la domanda che io, popolino, come chi politico... Chi le dice non siano stati prelevati comunque dei campioni, dei cadaveri delle persone incedute? No, presumo di no. Ma lo sa lei con certezza? Nino Cartabellotta, no, lo so perché ho parlato con un medico legale e mi dice cominceranno adesso ad analizzare alcune persone morte, anche addirittura prima che si parlasse di coronavirus in Italia, e quindi queste analisi verranno fatte. Nino Cartabellotta, come vede, continuano i dubbi e continua il fatto, è interessante osservarlo, che le persone basano su una informazione presa, estrapolata chissà da dove, colta chissà da dove, persone che non hanno strumenti scientifici approfonditi, e su quello fondano il loro giudizio in base a quello che loro pensano che sia meglio. Ma guardi Nicoletti, il problema è che in situazioni di queste ciascuno di noi accetta molto più facilmente e ritiene vero quello che vuole che sia vero, quindi accettare che la patologia, voglio dire, sia meno grave del previsto o che produca un numero minore di decessi voglio fa parte della psicologia umana. Peraltro, a fronte delle affermazioni che ho letto anche io, quelle statistiche sui morti diretti da Covid, il problema delle mancate autopsie è un problema reale, ma se noi andiamo a guardare i dati Istat, Istituto Superiore di Sanità, che hanno guardato la mortalità dal 20 di febbraio al 30 aprile, confrontata con la media dei 5 anni precedenti, il numero dei decessi, c'è una sorta di eccesso di mortalità, la cosiddetta supermortalità, in quelle aree geografiche che hanno avuto la maggiore prevalenza della diffusione dell'epidemia. Però Cartabellotta, si rende conto che dopo 4 mesi diciamo esattamente le stesse cose, diciamo 4 mesi fa? Ma è paradossale questo, c'è qualcosa che non funziona. Mi risponde alla domanda che avevo fatto prima, riguardo alcuni punti che in questo momento, se cade tutta l'impalcatura, che c'è stata una pandemia, che c'è un virus di cui ancora sa molto poco, che i morti sono stati esagerati, che alla fine solo il 3% erano morti di Covid, erano dei poveri vecchi, sarebbero morti comunque, non vale più niente, è tutto sovrascrivibile. Invece, riguardo al distanziamento, qual è la regola che ancora ci dice, perlomeno per quel poco che può valere, quella che è l'evidenza scientifica? Ma rispetto a quelle che sono le misure fisiche di distanziamento sociale o fisico, come qualcuno preferisce chiamarlo, insieme alle misure di igiene personale, è l'unica strategia di provata efficacia per ridurre la probabilità del contagio, sottolineando ancora che ancora bisognerebbe stare distanziati, questa è la sintesi. Ancora bisognerebbe stare distanziati e ricordo a tutti che la distanza di un metro, quella minima efficace che è stata stabilita in Italia anche per un compromesso anche di natura politica per la riapertura di tutti i servizi, voglio dire, è un po' più bassa di quella di 1,08 m, che invece è quella raccomandata da studi, da evidenza scientifica internazionale. Quindi chi dice finalmente metri. Gli italiani vanno al mare, riano la gioia, sono usciti dal loro, hanno tagliato il loro guinzaglio, sbaglia, in effetti se stessero distanziati sarebbe più prudente per tutti. La prudenza sì, e poi ovviamente quando la distanza di sicurezza non è possibile mantenerla, l'uso delle mascherine soprattutto al chiuso continua a essere raccomandato. Ecco, tutta una serie di informazioni che riguardano, come lei diceva poco fa, il virus non hanno ancora dei riscontri oggettivi nella scienza raccolta in maniera sistematica, perché per esempio rispetto a tutto quello che è il ragionamento fatto sulle mutazioni, andando a guardare le sequenze genetiche depositate nelle banche dati internazionali, non documentano nessuna mutazione associata a diminuzione di infezione, attività di virulenza o altre caratteristiche epidemiologiche che possono essere rilevanti per la sanità pubblica. Cioè, in termini molto, molto semplici, allo stato attuale delle conoscenze il virus di per sé non è meno aggressivo, così come non è mai stata dimostrata una maggiore sensibilità alle alte temperature. È evidente che durante il periodo estivo, stando più all'aperto, c'è minore probabilità, diciamo, di trasmissione da persona a persona, e anche il fatto che al caldo le goccioline, le droplet e anche l'aerosol evaporano più rapidamente. Quindi sono, diciamo, degli effetti indiretti della stagione estiva. Tra l'altro ricordo a tutti che ci sono paesi dove le temperature sono molto più calde di quelle in Italia, dove in questo momento il virus sta imperversando in maniera assolutamente drammatica. Quindi le narrative purtroppo dobbiamo costruirle su quelli che sono i dati oggettivi della scienza, ribadisco, raccolti in maniera sistematica, perché qualunque singolo studio, anche ineccepibile, anche impeccabile dal punto di vista metodologico, non modifica da solo quello che è il patrimonio delle conoscenze scientifico, se preferite il grande puzzle del sapere. Il puzzle è fatto di tante tessere, queste tessere sono i singoli studi, quindi la ricerca deve riflettere sempre quelle che sono le conoscenze sistematiche e non la ricerca pubblicata dal singolo autore nel singolo. Ci fermiamo ancora un secondo, Cartabellotta, perché devo ridare nuovamente la linea e poi nella parte finale vediamo se è possibile di continuare a fare con grande spregiudicatezza e senza temore di passare dalla parte dei menagrami di quello che è il punto alla luce delle evidenze scientifiche. Ci fermiamo un istante. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Melog 800240024, sto guardando la media delle telefonate e sono tutte più o meno dello stesso tenore. Ciò dimostra che l'ultimo rapporto Gimbe, che ci sta illustrando il presidente Nino Cartabellotta, ha messo il dito in un punto nevralgico. Noi possiamo continuare a raccontare ogni giorno quello che accade, le opinioni, i nuovi studi, le prese di posizione, registrare la realtà, ma prevarrà sempre una sorta di punto di vista personale, e da questa impasse secondo me bisognerebbe in qualche maniera uscire. Sentiamo Lorenzo da Grosseto, buongiorno. Buongiorno, salve, io sono in vacanza e la percezione che ho è che positiva, insomma, che sembra che non ci sia più nulla, rispettiamo tutte le normative, però si sta sicuramente meglio qua che all'interno di una città altamente popolata, insomma. Voglio dire, sto meglio qui che a Bologna, in poche parole. Mi sembra, cioè, chiaro, sta meglio in vacanza al mare che starsene in città, questo è normale. Però, diciamo, oltre il benessere, ha la sensazione che ormai l'emergenza sia passata. Patrizio, invece, da Roma. facciamo una carrellata nazionale. Lei che percezione ha? Sì, guardi, la mia sensazione è che non sia stata mai detta la verità, che è quella che non sappiamo granché. E io faccio il medico, ho seguito la cosa perché mi premeva, anche perché me lo chiedevano. La verità è che non si sa e non si può conoscere con certezza qual è il presente e qual è il futuro di questo virus, però non si può lasciare... Però mi scusi, questa non è che è stata nascosta. Chi con attenzione legge e ha una minima confidenza in quella che può dire la scienza dice lo stiamo analizzando, stiamo studiando, prima non c'era e non sappiamo dirvi come reagirà da qui al futuro. Non c'è nulla di omesso, di nascosto, si dice quello che si può dire. Un uomo di scienza difficilmente può fare previsioni, non è una fattucchiera. Lei è corretto quello che dice, ma è così la realtà. Uomini di scienza, quello che ho visto è che giravano sui giornali le tesi più fantasiose, ma dal governo o comunque dai responsabili della sanità non è mai avvenuta la dichiarazione, abbiamo le idee confuse. Vi diciamo le varie possibilità. Questo non è stato presentato. È stato lasciato modo a chiunque di inserirsi in questo filone. Mentre ogni qualvolta si tenta di coprire con una bugia la verità, succedono questi disastri. È meglio l'ambisce una tesi che ci sia comunque un complotto. A chi è stato strumentale? No, quale questo? Complotto? Semplicemente una ingenuità e un'incapacità di ammettere l'errore, di ammettere l'incertezza. Perché io capisco che il popolo, secondo una certa mentalità, la persona potrebbe... Ecco, lei cosa avrebbe fatto? Se lei avesse avuto modo di decidere, cosa avrebbe fatto lei? Visto che anche meglio. Se avessi potuto dirlo, io avrei detto chiaramente, signori, questo è quello che sappiamo oggi, ma esiste un'enorme fascia di incertezza per cui giorno per giorno cercheremo di aggiornarvi dicendo cosa può accadere, ma oggi non lo sappiamo, quindi è lo stesso. Ma mi sembra che più o meno la posizione generale è stata questa. Sentiamo Nino Cartabellotta rispetto all'ultimo ascoltatore, vediamo di concludere con un commento a quello che ha detto lui. Ma io sono d'accordo con il collega per un fatto molto semplice, che in parte un po' la comunicazione istituzionale si è alleggerita, soprattutto da quando quella conferenza stampa della Protezione Civile era comunque un momento di confronto anche con la stampa, con i giornalisti. Certo è che mantenere l'attenzione alta su tutti quelli che sono i temi delle evidenze scientifiche in continua evoluzione richiede un obiettivo di informazione pubblica da parte di tutto quello che è un po' a livello istituzionale molto molto alto, e questo in Italia purtroppo è stato sempre, noi l'abbiamo sempre denunciato. Ma quale sarebbe stato l'organismo che avrebbe dovuto avere il compito di raccogliere, decifrare e mediare quella che era la voce della comunità scientifica? Ma in parte lo sta facendo l'Istituto Superiore di Sanità, che gestisce il bollettino della sorveglianza epidemiologica, però gestire l'informazione pubblica della popolazione attraverso una continua ricerca sistematica delle evidenze e trasformandole poi in parole semplici per i cittadini richiede uno sforzo che in Italia non abbiamo mai saputo fare in termini di comunicazione ai cittadini. E ora poteva essere fatto diversamente, Cartabellotta? Come poteva essere fatto diversamente? Come? Come poteva essere fatto diversamente, secondo lei? Poteva essere fatto diversamente, come succede negli altri paesi, con un bollettino settimanale di evidence update fatto in maniera rigorosa e comunicato ovviamente con linguaggio plain, semplice per la comprensione dei cittadini, perché altrimenti in questo contesto quello che è successo, come giustamente è stato rilevato, chiunque occupa una posizione scientifica, clinica, rilevante, può esprimere la sua opinione più o meno oggettiva, più o meno distorta, che finisce ovviamente... La sigla ci porta via, Cartabellotta, alla prossima. Grazie.